Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera parliamo di carpooling, ovvero la versione più moderna e sofisticata dell'autostop, perché poi in fondo di questo parliamo. Carpooling significa quindi condivisione da parte di più persone di un'auto privata, suddividendo le spese di viaggio e, perché no, anche potendo godere di un po' di compagnia durante il viaggio. Ed è un po' come l'uovo di Colombo il carpooling. Per capire, d'altra parte, che il suo potenziale è molto elevato, non servono studi raffinati, basta osservare che la maggior parte delle automobili può trasportare almeno 4 persone, ma viaggia con a bordo il solo conducente. E se fino a pochi anni fa era impossibile praticamente immaginare di incrociare offerta e domanda di passaggi, se non mettendo fuori il pollice sul ciglio della strada, oggi grazie all'informatica è facilissimo. Ci sono infatti molti siti internet in cui voi potete inserire le vostre coordinate di viaggio e trovare dei compagni di viaggio tra chi cerca oppure chi offre passaggi sulla stessa tratta. Per esempio potete inserire che cercate un passaggio da Milano a Bologna un certo giorno a una certa ora, oppure potete segnalare che tutti i giorni fate un certo tragitto per recarvi al lavoro e che siete disponibili a ospitare altri viaggiatori. Tutto fantastico, meno auto sulle strade, meno spese per i viaggiatori. Ma se si vanno a vedere i numeri, in Italia non si superano i 10.000 viaggi in carpooling all'anno, mentre abbiamo milioni di veicoli che ogni giorno scendono sulle strade. Troppi siti che frammentano l'offerta, paura di trovarsi a bordo con la persona sbagliata, tempi non ancora maturi, non sappiamo rispondervi, ma qualcosa decisamente non va. Ecco perché questa sera vogliamo parlarvi di un modello innovativo, per quanto ancora sulla carta, di carpooling aziendale. Ne parliamo con Nadia Busato, giornalista, blogger, di recente anche coordinatrice di Brescia Smart City. Ciao Nadia, ci diamo del tu, ci conosciamo piuttosto bene, risparmiamoci la pantomima del lei. Quindi salutiamo tutti gli altri. Salutiamo tutti gli altri. Dunque Nadia, tu sei qui invitata perché hai avuto un'idea, la stai sviluppando con altre persone, per un modello alternativo che ci è sembrato qui a noi di Smart City una buona idea, di carpooling. Cosa differenzia questo modello che state cominciando a mettere in piedi dal carpooling tradizionale, se così possiamo dire? Certo, allora innanzitutto il progetto si chiama World Road ed è nato circa 2 anni fa, nel momento in cui insomma c'erano le prime avvisaglie della crisi ed era necessario applicare un po' quella filosofia del low cost, quindi rivedere tutta una... Dovevano fare una bella spending review anche le aziende, insomma. Esatto, una spending review, era necessario cominciare a tagliare dove era possibile tagliare e ci siamo accorti che in effetti ogni grande azienda che accentra quindi su di sé dei percorsi casa lavoro che tutti i giorni sono regolari, perché si va tutti nello stesso posto timbrando il cartellino, insomma molto banalmente alla stessa ora e facendo quindi un certo tipo di percorso, mancava in realtà un'ottica in questo senso, per cui l'azienda deve garantire questo tipo di percorso per sicurezza, quindi attiva delle linee di autobus che l'azienda portano, per effetto della 626 che è la legge sulla sicurezza sul lavoro, ha l'obbligo alcune aziende di mettere a disposizione per esempio un certo numero di linee di bus per portare in fabbrica, negli uffici, i dipendenti, giusto? Esatto, sono obbligati esatto. A farlo. Hanno delle linee vere e proprie, quindi hanno dei punti di raccolta, hanno dei percorsi prestabiliti e che generano in realtà un circuito spesso vizioso, per cui comunque i dipendenti, per sentirsi più liberi, spesso scelgono di non utilizzare le linee di autobus aziendali, che devono essere mantenute in linea e comunque spesso e volentieri molte aziende attivano dei rimborsi per l'utilizzo del mezzo proprio. Alla fine dell'anno sono dei budget da milioni di euro. Su cui appunto voi avete pensato che si potesse intervenire utilizzando lo strumento del carpooling. Quindi come funziona? Beh, il carpooling è innanzitutto la condivisione dei posti liberi in macchina, che si può fare con degli sconosciuti o con delle persone che condividono comunque i nostri percorsi verso la destinazione nostra. Se la destinazione è comune perché è il nostro ufficio, allora è più facile farlo con i colleghi che tra l'altro facile mettere insieme le esigenze. Conoscono. Certo. L'azienda toglie le linee di autobus e incentiva i suoi dipendenti a organizzarsi attraverso il sistema di carpooling che lei stessa mette a disposizione, valorizzando dei coin che sono di utilizzo del sistema e di risparmio di CO2. E questi coin arrivano al dipendente in busta paga, che quindi si trova abbattuti i costi del proprio mezzo privato. Quindi in pratica l'azienda per ogni tot viaggi con questa modalità può ridurre le linee che deve mantenere attive. E insomma l'utente, che poi è un dipendente, si vede riconosciuti con dei gettoni, diciamo in busta paga, l'utilizzo del carpooling al posto del mezzo proprio delle linee aziendali. E insomma sono tutti felici in questo modo, la cosa dovrebbe funzionare. Voi curate anche poi un altro aspetto, quello della socialità. Beh, sì, nel senso che poi il sistema abbatte dei problemi relativi, per esempio, al dare passaggio a degli sconosciuti, perché più o meno siamo tutti colleghi nella stessa azienda. Si favorisce quindi anche la creazione, direi, di una coscienza verde all'interno proprio dello stesso parco lavorativo, per cui si sensibilizzano i dipendenti al rispetto dell'ambiente. Ecco, che cosa serve da un punto di vista, diciamo così, infrastrutturale? Che strumenti servono per tenere traccia di tutti questi passaggi che si danno i dipendenti l'un con l'altro? Speriamo. In questo caso serve un solo smartphone per vettura, ovviamente, okay, con l'app da utilizzare. E il sistema è integrato con il badge aziendale. Quindi c'è un'app apposta che si carica. Voi state ragionando su delle modalità per poter rendere un giorno universale questo meccanismo del gettone. Come si fa a uscire dalla dimensione aziendale? Cosa avete in mente? Beh, lì esiste il problema di cercare dei partner terzi che diano valore a questi gettoni, ovviamente in servizi per l'automobilista, che lo incentivino a condividere il suo viaggio, perciò parliamo di gas coin piuttosto che sconti sull'assicurazione, oppure perché no, proprio cambio gomme, cose molto pratiche che però servono agli automobilisti. Bene, grazie a Nadia Busato, noi ci fermiamo qui e ci risentiamo domani. Buona serata.